Allora, la vicenda è surreale, nel senso che la docente dell'area di Palermo, che è un'insegnante di una scuola superiore di Palermo, è stata sospesa per 15 giorni con la trattenuta anche dello stipendio, e sostanzialmente questa sanzione disciplinare combinata al provveditorato di Palermo, sulla base di una segnalazione avvenuta tramite Twitter da un esponente di Forza Nuova, non è suffragata da una fonte giuridica normativa. Di fronte alle insistenti richieste di Luigi Del Prete, che è il membro dell'esecutivo nazionale di SB Scuola, di capire quali fosse il codice disciplinare o le elemento contrattuale che normava questa sanzione, la risposta del provveditore di Palermo, Anello, è stata che ritiene di aver agito secondo coscienza. Ora, non è pensabile che una docente che ha 63 anni, quasi 40 anni di esperienza, di attività didattica, che svolge normalmente la sua funzione docente e anche liberamente la sua funzione docente in una classe, consentendo agli studenti di esprimere un'opinione in un paragone, perché questa è l'imputazione, quello che le si imputa, no? Il reato di omessa vigilanza, che poi sarebbe in realtà un reato di insegnamento, diciamo, perché l'omessa vigilanza riguarda quei casi in cui qualche studente si fa male e il docente non è stato accorto, attento, insomma non ha vigilato, ecco, e quindi la si accusa di non aver sostanzialmente censurato e represso i suoi studenti, che in una presentazione di un PowerPoint paragonavano le leggi razziali del 1938 al decreto sicurezza del ministro Salvini. Ora, noi riteniamo che questo atto sia un atto politico da parte del provveditore di Palermo, che questo atto politico sia stato fatto non secondo coscienza, come dichiara il dottor Anello del provveditorato di Palermo, ma che è stato fatto per compiacere questo governo. Abbiamo reagito con forza subito giovedì scorso, lanciando una petizione su Change che è arrivata a 190.000 firme, contiamo entro domani di raggiungere le 200.000 firme, perché secondo noi c'era da fare una battaglia culturale, una battaglia civile, una battaglia anche nella società, e devo dire che il corpo docente ha risposto, i lavoratori della scuola in generale, perché arrivano attestati di solidarietà anche da ATA, da docenti di scuole medie, elementari, superiori, da docenti universitari. Insomma, si è sviluppata una campagna anche mediatica che ci ha sorpreso ovviamente in positivo, perché dopo anni di riforme, di buona scuola, di repressione dal punto di vista normativo e burocratico del lavoro dei docenti, questa levata di dignità è stata veramente bella, bella, positiva, unitaria. Ci vogliono spaccare con la regionalizzazione, la migliore risposta l'abbiamo data a questo governo repressivo che vorrebbe instaurare un clima di paura nelle classi, l'abbiamo data non solo con le firme, ma continueremo a darla domani, quando ci ritroveremo in presidio in tantissime città d'Italia a partire dalle ore 17. A Bologna lo faremo davanti alla prefettura in via 4 novembre, a Bologna, e tutte le altre città si riuniranno davanti alle prefetture a partire dalle ore 17 del giovedì 22 maggio. Ci sono Bologna, Ferrara, Pavia, Milano, Torino, Napoli, Catania, Genova, Grosseto, Livorno, Pisa. Ci sono veramente tantissime città italiane che presideranno le prefetture dalle 17 per dare un segnale a questo governo, un governo che si vanta di aver disinnescato la buona scuola, cosa che sappiamo essere non vera e che in realtà alimenta questo clima di paura nelle scuole. In alcuni giornali abbiamo letto per esempio che alcuni colleghi suggeriscono agli studenti di classe quinta di non affrontare tematiche che parlino di politica nei temi della maturità, perché appunto non sarebbero opportune, potrebbero essere mal viste. Insomma, non è pensabile che si possa continuare a insegnare e ad apprendere in questo clima. Vogliamo la libertà di insegnamento, vogliamo la libertà di apprendimento, abbiamo detto sospendeteci tutti, perché in realtà quello che ha commesso la professoressa dell'area di Palermo non è un reato, ma è normale attività didattica che compiamo tutti i giorni. E quindi mercoledì 22 maggio ci riuniamo davanti a tutte le prefetture per dichiarare a questo governo che non abbiamo paura e che la libertà di insegnamento non si tocca, e appunto dovrebbero sospenderci tutti se ritenessero di voler operare in senso repressivo. Il discorso lo abbiamo ribadito in un convegno qui a Bologna, in cui mettevamo a tema le questioni inerenti ai diritti sociali sottratti, la repressione, dicendo appunto che l'anno scorso insomma vedevamo questo clima repressivo soprattutto nel mondo del lavoro privato. Ecco, questo è un segnale che anche nel pubblico impiego è arrivata la volontà appunto dall'alto di deformare il nostro ruolo istituzionale, che la Costituzione invece definisce in altri termini. Per cui ci saranno questi presidi davanti alle prefetture, e invece giovedì 23 maggio saremo a Roma, perché nella giornata di domani verrà consegnata una lunga lunga lenzuolata con tutte le 200.000 firme al provveditore di Palermo, mentre giovedì consegneremo tutte queste firme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in teoria dovrebbe essere il garante della Costituzione, ma ancora tace e non opera per una immediata revoca della sospensione alla collega. Anzi, le dico anche questo, che ieri abbiamo mandato alla stampa un comunicato che è stato rinviato anche stamattina, in cui chiediamo e pretendiamo le dimissioni del Ministro Bussetti, perché ieri in una trasmissione la trasmissione Giorno a Pecora ha dichiarato che lui avrebbe operato per una sanzione più leggera. Ecco, è impensabile che si possa fare una dichiarazione di questo tipo, sostenere ancora di non saper niente parte rispetto a questa sanzione che Bussetti ritiene sia stata presa a livello decisionale solo dal provveditorato provinciale di Palermo, e evidentemente con questa dichiarazione fatta dal trasmissione Giorno a Pecora si smaschera l'ipocrisia di questo ministero, che evidentemente a Roma sapeva tutto, come dichiarato anche dall'ex ispettore Fusacchia nei giorni scorsi alla stampa. Pertanto noi chiediamo a gran voce, e continueremo domani davanti a tutte le prefetture d'Italia a partire dalle ore 17, da Bologna a Palermo, da Catania a Torino, chiederemo a gran voce le dimissioni del ministro Bussetti, perché riteniamo che questo atto sia un gravissimo attacco alla democrazia, un gravissimo attacco alla scuola statale, che è la scuola della Repubblica, un gravissimo attacco alla libertà di insegnamento. Contro questi attacchi non possiamo che unirci e reagire compatti. Perfetto, hai già spiegato molto bene, diciamo, tutta la situazione, anche quali sono gli appuntamenti per i prossimi giorni. Ti farei solo una domanda per allargare un pochino il discorso, nel senso che sicuramente il caso della professoressa dell'Aria è emblematico e particolarmente grave, però ti chiederei a livello di repressione, diciamo, all'interno delle scuole. Qualche mese fa avevamo parlato anche su queste frequenze del fatto che ci sono moltissime sanzioni disciplinari nell'ultimo periodo, sanzioni disciplinari che poi sono uno dei parametri secondo cui si misura anche la serenità di un ambiente di lavoro, e ti chiederei se confermi questo aumento, diciamo, delle sanzioni disciplinari all'interno delle scuole, questo abuso in qualche modo di sistemi punitivi. Sì, noi a livello sindacale come OSD Scuola a Bologna riscontriamo certamente un aumento delle sanzioni disciplinari, sia dei richiami verbali che dei richiami scritti. C'è da dire questo, che è un dato che aggrava la situazione. Molto spesso, con gli stipendi che abbiamo, sia docenti che personale ATA, i lavoratori tendono a non denunciare questi fatti, un po' per il senso di vergogna. La stessa docente di Palermo l'ha detto: io mi sento ferita, no? Quindi c'è anche questo livello di burnout psicologico che impedisce una reazione immediata, cosa che invece non è accaduta con la collega di Palermo. Dall'altro lato c'è da dire anche che con lo stipendio che abbiamo molti fanno fatica anche a ricorrere al giudice del lavoro e a TAR, quindi ad affrontare sostanzialmente le spese legali. Quindi molto di questa catena, diciamo, repressiva è attualmente sommersa, perché è certamente aumentata la repressione, è aumentata anche il livello di conflittualità, ma rimane un dato difficile in questo paese ottenere giustizia anche quando si è dalla parte della ragione. Ecco perché per noi anche la vicenda della collega di Palermo quest'anno, come la collega di Torino che ha perso il lavoro, la maestra di Torino che si trova in manifestazione, quindi è stata, insomma, accusata l'anno scorso, massacrata mediaticamente, in tutti questi casi, diciamo, che emergono nella cronaca, noi li indichiamo come questioni più larghe, come questioni anche che hanno una cassa di risonanza politica, di cui i cittadini, che siano lavoratori della scuola o no, devono in qualche modo farsi carico, devono attenzionare, perché da questo si misura il livello di democrazia della nostra società, o di perdita di democrazia nella nostra società. Perfetto, allora ti ringrazio, ti chiedo solo come ultima cosa di ricordarci, per chi volesse tra le ascoltatrici e gli ascoltatori trovare e firmare la petizione che avete lanciato, dove si può trovarla? Allora, potete trovarla sul sito scuola.usb.it, che è il sito nazionale dell'USB Scuola, potete trovarla su tutte le pagine Facebook dell'USB Scuola, quella nazionale USB Pubblico Impiego PI Scuola, le altre locali sono tutte USB Scuola Bologna, USB Scuola Modena, eccetera, eccetera, e da lì troverete i link per cliccare la petizione che si trova su change.org. Chiediamo a tutti un ultimo sforzo, appunto, per arrivare alla cifra tonda delle 200.000 firme, che è significativa solo a livello numerico, ma è già un risultato che noi festeggiamo con grande contentezza, perché è stato un primo atto di dignità al quale speriamo che segua una seconda levata di scudi a protezione della libertà di insegnamento domani 22 maggio in piazza davanti a tutte le prefetture delle più grandi città d'Italia, a partire appunto dalla nostra Bologna.